avventurieri, davanti a voi si trova una figura alta e avvolta in vesti sabbiose. Il suo volto è celato da un velo intessuto di simboli antichi.